aprile 1978 va di scena la più bella corsa al titolo di capocannoniere NBA. David Thompson scende a Detroit e nonostante la sconfitta realizza 73 punti. Ai tempi, miglior prestazione tutti i tempi per un esterno NBA, ritoccando la sua media punti a 27.1. Ma purtroppo non ha fatto i conti con George Gervin. Ice ne mette 63, ritoccando la sua media punti a 27.2 e aggiudicandosi così il titolo di miglior realizzatore della stagione. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te caro Paolo, buongiorno a tutte e a tutti nuovamente, buongiorno amiche sportivi e non sportivi per il Move to Groove dell'imprevedibile martedì di Radio Città Fujiko e bentornato a Pietro MVP Rookie of the Year. Oggi parleremo di Rookie of the Year tra l'altro, quindi sarai protagonista. Buongiorno Pietro, bentornato. Buongiorno Willy, grazie mille. Oggi sono io un pochettino da injured list, però insomma abbiamo scambiato se vogliamo i ruoli, ma è bello per questo anche il Move to Groove. Un aspetto intercambiabile. Pensa che abbiamo citato George Gervin, che per me è il terminale offensivo più forte di tutti i tempi nella pallacanestro, e lo metteremo in contrapposizione con un atleta che invece aveva ben altro utilizzo sul parquet. Giocatore fortissimo, tra l'altro entrato nella Hall of Fame nonostante i nostri interrogativi, se vogliamo, però avremo qualcosa da dire anche sulla Hall of Fame. Però oggi parleremo, a proposito di un aspetto filosofico, di chi dà sicurezza anche nella vita, anche nella quotidianità, anche nel lavoro, quei personaggi che arrivano e danno una sicurezza. È sempre così o molte volte, a volte potrebbe essere anche uno stereotipo, no? Ci sono le etichette che vengono date. A voglia. Non è tanto il contenuto, non è tanto come viene esposto, non è tanto quello che viene portato, non dico teoricamente ma anche concretamente, molte volte, soprattutto ai giorni nostri, è chi lo dice. Ecco, giusto. Questo è nell'aspetto cestistico qualcosa che va a rispecchiare tutto ciò. Lo faremo con un giocatore entrato nella Hall of Fame e ci sta facendo i gestacci Michael Cooper. Non credo, anche perché no. Gran signore. Sì, sì, elegantissimo. Gran signore elegantissimo, perché è citato con George Gervin, perché sono giocatori completamente diversi tra di loro e nello stesso tempo hanno un'altra caratteristica. Entrambi in periodo post-rivoluzione sono arrivati a giocare in Italia ed entrambi a Roma, per cui questa caratteristica che accomuna questi due atleti completamente diversi, seppur più o meno in uno stesso ruolo, come viene interpretato da entrambi lo vedremo, arriveranno a Roma. Chi l'avrebbe mai detto? Se avessi pensato nel 79, 80, fino all'85 così, di vedere in Italia George Gervin o Michael Cooper, sarei caduto dal letto, dico probabilmente sto sognando, mentre invece è stata una conseguenza al periodo post-rivoluzione. Questi atleti chiaramente hanno sentito il passare degli anni e in un cambiamento importante nel mondo dello sport sono arrivati a giocare in Italia. Chi ha svernato, chi ha riportato le proprie caratteristiche, sicuramente tutti hanno dato un contributo positivo alla pallacanestro e di questo ne ho la certezza. Ogni tanto io mi diverto a fare un dream team di grandi campioni arrivati in Italia, non so, i tre centri, Artis Gilmore, Jo'Barry Carroll, Darrell Dawkins, sono tre centri che potrebbero tranquillamente arrivare in finale di conference, certo. Anche per l'epoca, hai capito? Sono arrivati a giocare in Italia. Comunque, vedremo da Michael Cooper, tra l'altro, che arriva nella Hall of Fame, di trovare queste sfumature che hanno delle attinenze anche con quotidianità e contemporaneo al Mood Groove di oggi. Però dopo lo stacco musicale i protagonisti saranno i campioni NCAA di questa stagione. Concluso il March Madness e vedremo che è successo. A tra poco. Se Gervin era uno dei migliori realizzatori ai suoi tempi, con Michael Cooper poi era uno dei migliori difensori ai suoi tempi sugli esterni. Secondo me dopo Moncrief c'era lui, Six, Dennis Johnson e compagnia, comunque era sempre tra i primi 5. Colonna sonora più vicina a noi dal periodo AC Jazz dell'Ubiquiti e dalla West Coast, visto che il protagonista è californiano, è nato a Los Angeles, nell'NBA ha giocato solo a Los Angeles, ha frequentato l'università del New Mexico, resterò certamente con una colonna sonora geograficamente a tema. Grey Grooves, Grey Boy con il featuring del flautista, in questo caso lui è anche sassofonista, è Carl Denson. Anche se per i campioni NCAA siamo nel Connecticut, esatto. Università che tra l'altro, voglio dire, ha delle caratteristiche ben precise, intanto vittoriosa, ma da quello che tu mi stai portando a conoscenza, in quanto come ben sai sono molto latitante nella pallacanestro contemporanea, mi hai detto guarda che hanno vinto intanto 2 anni di fila e poi hanno un'altra caratteristica, prospetti per l'NBA? Ma non particolarmente di rilievo, ho guardato i mock draft che sono molto esperto di basket, certo, pur, ma lo non sei. Pur non avendoli mai visti giocare, guardandone 3 o 4, anche dopo no, l'onda lunga del titolo, perché questo è sempre interessante quanto cambiano le previsioni e i pronostici dopo una vittoria importante, comunque si parla al massimo di un giocatore in top 7, me lo sono segnato, Donovan Klingan, un lungagnone bianco di 2,20. È quello di 2,20. Ma non è quello che pensi te, secondo me, perché ce n'erano due in finale NCAA. Okay. Donovan Klingan per UConn e Zach Edey per Purdue, che è molto forte, molto, ma molto scolastico. Il college che ne esce al secondo posto ha una storicità più, esatto, più sì, profonda, sì. Non so, mi viene in mente da Purdue Joe Barry Carroll, che abbiamo appunto citato. Esatto. UConn sembra essere più una novità degli anni 2000, negli anni 2000 effettivamente sì, ha vinto tanto, ha vinto 5 titoli, anche lì senza mai avere no, il fenomeno che poi arriva in NBA e cambia un po' le sorti. Un buon lavoro di alchimia, esatto, di un buon programma. Sì, e... certo. Io guarda, arrivo al 79, viene scelto al quinto giro, al quinto round, con il numero 95, non farà, resterà rookie, perché arriva subito in Italia, giocherà una stagione a Trieste, è Jim Abromaitis, giocatore onesto, un bianco che sapeva giocare anche fronte a canestro, resterà solo una stagione, poi andrà per altri lidi, però... pensa, 1979, scelta numero 95. Ora sono 60 in tot. Hai capito? Aggiungo anche nell'82, giocatore che a me piaceva anche questo, è arrivato in Italia, farò ricerca, e Chuck Alexinas, un giocatore, un centro in questo caso, un... giocatore fisico, un giocatore robusto. Ecco, i due giocatori che io conosco da UConn sono questi, e non sono certo delle scelte di prestigio. Questo invece è stato scelto con il numero 76, per dirvi. È una tradizione, quindi probabilmente che si mantiene all'interno di University Connecticut, a dispetto di Purdue, che invece ha una storicità che va più nobile, un po' più nobile. Stagioni pregevoli a Gorizia, tra l'altro, Alexinas, e ha giocato una stagione nei Golden State Warriors. Ti parlavo di un giocatore che non riuscivo a definire, sono stato molto cauto e l'ho portato a essere un giocatore fisico. Al college era definito l'assassino. Diciamo che era qualcosa di più come intensità, ecco. I giocatorini da UConn sono usciti, Ray Allen, Rip Hamilton, tutta gente che poi ha vinto titoli NBA. Sì, ma si parlava giustamente, peraltro è stato portato un aspetto completo nei draft usciti dalla University of Connecticut, ma una storicità un po' più recente, ecco, per le università almeno dei miei tempi. Ci sono ancora, penso di sì, North Carolina, Duke, sì, Georgetown. Sì. Poi sai, è anche il tema vincere. DePaul, cioè vincere con la grande stella NBA o senza, certo. Ray Allen arriva 96-97, se non sbaglio, in NBA, sì, sì, perché è del draft del 96, e UConn vince nel 99 il primo titolo, quindi no, una formazione questa, c'è stata questa, sì. Questo binomio che c'è in NCAA non necessariamente il grande prospetto, poi anzi mi verrebbe da dire te sicuramente sei più preparato, spesso magari prima con frequenza diversa, ma spesso avere la scelta numero uno a livello di torneo in NCAA te ne fai il giusto. Eh sì, molte volte è capitato, ed è un aspetto che nei rookie di cui parleremo, non so, a me viene in mente di un giocatore fortissimo, periodo di normalizzazione, Danny Manning. È stato okay. Un atleta che andò ai Clippers, un'ala piccola di 2'8, giocatore fortissimo, moderno, tutto quello che vuoi. Però non è stato sicuramente un giocatore importante, però diciamo che ci si aspettava di più. Mi viene in mente anche Pervis Ellison, Pervis out of service, che è definito appunto, perché è stato prima scelta assoluta. Thank you. tempi delle superiori, invece che ascoltare le lezioni di elettrotecnica, facevo questi All-Star Game. A ridosso degli anni 90 sono arrivati in Italia, attenzione, parlo del settore guardi, Michael Ray Richardson, detto Sugar, a Bologna. Larry Bright, campione NBA, anello Washington, arriva a Roma. Reggie Theus, grandissimo giocatore esteticamente. Perfetto, fantastico. Fantastico, arriva a Varese. Darvin Cook, seppur un point guard nei New Jersey Nets importante, avrà motivo a Pesaro di portare il primo titolo insieme a Darren Day, giocatore che in NBA è stato un onesto primo cambio, ma che in Italia avrà l'emozione di comunicare, oltre che la concretezza, che giocare a pallacanestro non è poi così difficile. Ma insomma, diciamo che lui poteva permettersi di comunicare questa sensazione. George Gervin, Rolando Blackman, Michael Cooper, Gervin e Cooper sono i nostri protagonisti. Per le ali, Adrian Dantley, Alex English, Mike Mitchell. Intanto aggiungo anche due che ho tenuto fuori, pensa te, dal roster, che sono Tellis Frank a Caserta e Joe Jellybean Bryant, il papà del povero Kobe. Portiamo le ali forti, Bob McAdoo, Mark Landsberger. Concludiamo con i tre centri, che sono Artis Gilmore, Joe Barry Carroll e Darrell Dawkins. Questo è un roster che secondo me può arrivare tranquillamente in finale di conference. A voglia. Tranquillo. Citato due signori giocatori, se Manning non si strazzava le ginocchia era una superstar assoluta. Sì, confermo. E Never Nervous per Vince Ellison, se avesse avuto una testa migliore sarebbe stato un signor lungo. Che poi ce ne sarebbero anche altri, Antoine Carter, Bailey, Walter Berry, questi signori giocatori che diceva la loro anche in NBA. Ma comunque ne parlavo la puntata precedente, di cui ho parlato degli scout, no? Tu devi guardare, ahimè, sarò crudele, però anche la condizione fisica. Beh, certo, certo. Guarda, pensa solo al lungo, per me è fortissimo, che andò a Portland, Sam Bowie, lungo 2,15, delle mani d'oro, un Walton per dire, con un tiro da fuori veramente devastante. Questo aveva le ginocchia in briciole, quindi magari per uno scout c'è anche questo aspetto da controllare. E al concreto, purtroppo, se devi investire, bisogna controllare e valutare anche questi percorsi. Hai usato la parola corretta, investimento. Superstar, però ho fatto un po' di ricerche, secondo me è stato Spencer Haywood, che tra l'altro come rookie, lui ha avuto il Rookie of the Year nella ABA, con una stagione a 30 punti e 20 rimbalzi. Altri numeri. Gli allenatori amano questi giocatori che danno sicurezza. Infatti il protagonista di oggi, Michael Cooper, è un atleta, è veramente il caso di dire un atleta. Per me, se Michael Cooper avesse deciso dopo l'università di portare nell'atletica leggera, non so, in salto in lungo o salto triplo, per me tranquillamente poteva fare le Olimpiadi. Ma te ce lo vedi a fare la maratona? Io sì, cioè, tipo scherzi. Una mezza maratona di quelle cittadine, con queste tranquillo, gambe lunghe, esatto. Lui con un fisico asciutto, reattivo e allo stesso tempo tutto nervo, molto forte, intuitivo e con una particolarità che direi proprio assolutamente valore aggiunto. Tu da un giocatore così cosa ti aspetti? Che sia un giocatore di concretezza, sì, non un realizzatore. Lui nei Lakers dei primi anni 80 ha vinto 5 titoli, e Michael Cooper nei Lakers di primi anni 80 ero lo specialista del tiro da tre punti, perché il tiro da tre punti, stavi dicendo Paolo, che guarda, leggevo comunque Michael Cooper è giocatore anche ora, anche lì da contestualizzare, non che prendesse 8 triple a partita come oggi, no. Però con le sue 3 triple a partita arrivava a un dignitosissimo 39% da 3, 38% da 3, che sono numeri che anche nell'NBA di oggi è averceli. Perché il rapporto con il tiro da 3 punti in quegli anni nell'NBA è come nel il kick nel football, no? C'era lo specialista. Esatto, esatto. Michael Cooper era, oltre che le caratteristiche elencate, anche uno specialista coi piedi per terra, con i suoi tempi, prendendo lo scarico da Magic Johnson, un tiratore preciso. Passava la palla divinamente, fondamentali importanti, tanto più che a Roma alla fine finisce per portar palla lui, ecco, per darti un'idea, sarà definito il primo swingman di tutti i tempi. Il primo swingman per me fu Robert Reed, un altro grande swingman è Paul Pressey, quelle, come possiamo definirle, ali piccole che sanno coprire tutti i ruoli da esterni. E Michael Cooper indubbiamente ne ha le capacità, ne ha avuto anche una concretezza di risultato. È sempre stato un giocatore, ebbene sì, però non lo vogliamo sottovalutare, comprimario. Però nella Hall of Fame non ce lo aspettavamo, ecco tutto qui. Così è stato, onore al merito, certamente è un giocatore molto corretto anche, se vuoi. Non sono il tipico tifoso bavoso, anzi non so quell'atteggiamento, anzi la copertina sarà un atleta dei Lakers. Sapete che io l'unica realtà per cui sono veramente tifoso è Boston, quindi sono i rivali storici. Ecco, per me il giocatore più forte di tutti i tempi, Larry Bird, contro Michael Cooper, ha dovuto mettersi lì. Ha sudato, Come on, mom, come on. Altro tipo di gioco, perché i Lakers erano prettamente contropiede, difficilmente lasciavano schierare la difesa avversaria, era rimbalzo soprattutto subito di Magic, che era già un vantaggio, partiva il contropiede e si andava con un layup, una schiacciata facile, e di tiri da tre se ne vedevano in i Lakers. Michael Cooper va da memoria ad essere il primo esterno tutti i tempi a vincere il trofeo di miglior difensore dell'anno. È così, in effetti. Sta... Confermo, Paolo, come sempre. Preciso. Esatto. E siamo arrivati alle 8:31 minuti, un po' di musica, pubblicità, poi rientriamo e ci sarà il consueto momento di rapportarci al di fuori del parquet con questi atleti, questi personaggi che danno sicurezza. E fu siccome Immobile, fu vera gloria, hai esatto. Capito? Quindi ai posteri l'ardua sentenza, vedremo appunto se tutto ciò è sempre così realistico e attinente alla realtà. A tra poco al Mutu Groove. We'll be right back. buongiorno a Lino che scrive a questo All-Star Game aggiungendo nomi importanti antecedenti. Ad esempio, è vero, però andiamo indietro un bel po'. Bill Bradley, il senatore, poi Tom McMillan e Jim McMillan, Jim McDaniel, e poi due nel mio cuore che sono Bucci, George Bucci, che è anche nel mio cuore, te lo posso assicurare, ma guarda, non hai idea quanto, ma ecco, diciamo che non ha ottenuto grandi risultati oltre oceano, in Italia clamorosi. Poi Leon Douglas, Leon Douglas ha giocato, è stato centro, vero, a Detroit e a Kansas City, fratello di John Douglas, la coppia Leon e John Douglas. Leon Douglas è stato diverse volte anche in quintetto in queste franchigie. Ecco, mettere Leon Douglas e un Darrell Dawkins, diciamo che un po' di differenza c'è, se vogliamo, però contributo apprezzatissimo, Lino. Saluta Wall. No matter what I do or say. Facciamoci venire un'idea valida piuttosto. Oh, Sì. Oh, Simone, mi dà fastidio quando mi tocchi. Oh, Madonna benedetta! Che c'è? Si potrebbe rilasciare un lascia passare. Ecco, il lascia passare. Il mio aiutante ha detto la stronzetta giornaliera. Ho trovato. Si potrebbe rilasciare un lascia passare. Bravo! Perché ho messo questo stacco dal capolavoro Fracchi e la Belbumana? Perché a proposito di dare sicurezza, non, né siate pigri e non delegate quando c'è il personaggio che dà sicurezza, eh? E allo stesso modo non sentitevi nemmeno, per così dire, in sudditanza per chi è stato indicato come il personaggio che dà sicurezza, perché molte volte dice esattamente le stesse cose che state dicendo voi, però per motivi di etichetta è lui il personaggio che dà sicurezza e la vostra affermazione risolutiva completamente identica è lasciata in secondo piano, anzi è definita una ok, l'ha detto Lino per me, ecco. Capita, a voglia, è verissimo, questo è purtroppo un aspetto, cioè se un giocatore fa 30 punti non è detto che sia utile, che so, perché è presente sotto le plance, almeno ai tempi, adesso le cose sono un po' cambiate, però che sia utile per un recupero, che sia utile perché sa passare la palla, perché sa leggere la partita, perché ha movimenti senza palla importanti. No, se uno è un realizzatore è quello, ma sì, lui è la star, lui è quello sempre, che non è detto, non sono appunto stereotipi ai quali cedere costantemente il passo, anzi tutt'altro, molte volte sono smentiti costantemente. Quanto è vero, che molte volte invece il cosiddetto giocatore utile è quello, sì, esatto, è quello che, non so, Danny Vrains mi viene in mente, oppure Bill Hanslick di Denver, di Bill Hanslick sullo Zender Hollander, che per me è la Bibbia, adesso ormai con la rete non esistono più queste pubblicazioni, di Bill Hanslick diceva: attenzione, è il giocatore ottimo, sa far tutto, tutto male, ma sa far tutto. Però lo fa. George Bucci è stato anche il campione NBA con i Nets, Giulio Sirga. Io sono il biografo di George Bucci. Tra l'altro ho avuto anche la fortuna una stagione di essere sparring partner, perché giocavo da esterno per George Bucci. Lui stesso mi cercava, probabilmente perché avevo questa sudditanza e lui giustamente si sentiva lusingato, e ci sta, però non voglio portare una critica al grande Giorgio. Per me la guardia, per me una tecnica, qualcosa di commovente, però non è, sì, è stato, ha vinto l'anello con Julius Irving nei New York Nets nella NBA, sì, ha vinto l'anello, però non so se ha fatto, sai come funziona lì, sì, come sì, hai detto, certo. Tu basta che fai parte del roster e hai vinto l'anello. Ora lo danno anche a chi viene scambiato a metà stagione, che è una roba delirante. Sì. Ha vinto l'anello Adam Filippi, che era il terzo scout. Ciao Adam, se sei all'ascolto. Con una malcelata invidia, certamente. Beh, comunque. Però io ho visto l'anello NBA, è una cosa che è grande come questo microfono, intanto. È una... Io ne avevo visto una replica dei Pistons dell'89 e del 90, non mi ricordo quale dei due, ed era grande come il mio pugno. Allora, io ho delle mani relativamente... esili, esatto, però ecco. Però insomma, esteticamente non ti dona. Non ci andrei a giro. Non ecco. Ti dona. Attenzione, molte volte, ecco, arriva quello che risolve i problemi, utile, chi più ne ha più ne metta. Può capitare che sia sopravvalutato, ma non sottovalutatevi voi e non fatevi prendere dalla pigrizia, anzi, abbiate fiducia nelle vostre idee e nelle vostre affermazioni, perché ah no, ci pensa lui, ah ecco, meno male è arrivato così, no, ma chiedi a lui, perché indubbiamente non è sempre così, Come di controparte fastidiosissimo, non so, faccio una domanda a me stesso, quando l'incipit della domanda è: Willy, ma tu che sai tutto? Come so tutto? Mamma mia, no, che pressione. No, come so tutto? Magari, no, anzi, più invecchio meno so. Prima di citare alcuni aspetti della Hall of Fame, per quanto riguarda Michael Cooper, due episodi del mio approccio negli anni, fine anni 70, inizio anni 80, arriva alle partite NBA. Guarda Pietro, fu una rivoluzione che qualcosa siamo rimasti. Siamo arrivati sulla luna. Della mia generazione. Allora, Michael Cooper girava perché i Lakers li trasmettevano. Certo. Allora, io da Michael Cooper ho visto la conclusione del primo alley-oop. Ah, e, wow. Ok, no? Allora, la mia prima impressione non è che abbia detto wow, ma che numero. È stata, ma si può fare. È regolare. No, non vale. Non si può giocare così. Poi ricorderò sempre Dan Peterson che disse su Mike, lui ovviamente innamoratissimo di Michael Cooper, e disse: se potessi scegliere un giocatore per la mia squadra, sceglierei. Ma mi sa di uno che ai coach piaceva. Ma è il tipico, lui è il esatto. Tipico giocatore che ai coach piace. Ce lo possiamo dire, un po' il secchioncello. Il secchioncello, ma sì, hai detto il termine giusto. E infatti questa formazione si chiamano The Ping Pong Groove, e lo scambio c'è. Allora, per concludere, visto che uno dei temi è stata la Hall of Fame, ho visto che ti sei selezionato alcuni aspetti che tra l'altro vanno in comparazione nel crescere degli anni. Di che si tratta? Allora, si tratta fondamentalmente dell'aumento di giocatori, della media di giocatori che entrano nella Hall of Fame, che fondamentalmente fino al 2010 si attesta una media di 2-3 giocatori. Faccio una breve scarrellata: nel 2003 entrano in Hall of Fame 3 giocatori, 2 per la loro carriera NBA, 1 per la propria carriera internazionale, che sono James Worthy, Robert Parrish e Dino Meneghin. Su Dino Meneghino qualche però, insomma, vabbè. Per la carriera internazionale. Carriera internazionale. Nel 2004 Clyde Drexler. The Glide. Esatto. Nel 2005, scusami, nel 2006 Dominic Wilkins, Charles Barkley e Joe Dumars. E fondamentalmente il livello dell'Hall of Fame si mantiene alto fino appunto al 2010-2011. Qui leggo al volo 2009 David Robinson, John Stockton e un certo Jordan, che comunque beh dai, se lo merita un po', dai, carino, simpatico. Arriviamo quindi agli anni più recenti. Per esempio nel 2021 abbiamo Chris Bosh. Ah, questi per me sono, puoi parlare forte ma non fortissimo, diciamo. Tony Kukoc, Paul Pierce, Ben Wallace, Chris Webber, Jay Wright. Ora, tutti giocatori relativamente forti di beh, questi. Tony Kukoc. Sì, però appunto. Sei no, molto Tony... severo. Secondo no, me no, è la concezione proprio di cos'è l'Hall of Fame. Cioè, se l'Hall of Fame è il meglio del meglio, Tony Kukoc non ci sta. Perché Tony Kukoc è fortissimo, cioè, ma non è il meglio del meglio. Ho detto anche un intervento. Scusate. Però Tony Kukoc per me è il più forte giocatore europeo di tutti i tempi. Dici? Per me sì. Dici? Chi è più wow. forte di Tony Kukoc? Tra gli europei? Allora, io sono un patito e qui magari Paolo mi verrà a corcare di Diamantidis, che era un greco degli anni 2000, secondo me fortissimo. Non il più forte di sempre, però... Vabbè. Penso a Sabonis, magari. Penso Sabonis è arrivato in NBA. Petrovic. Ah no, aspetta, te dici l'europeo sì, di sempre più forte sì, in NBA? Anche in NBA, okay. Sì, sì. Forse Nowitzki, l'americano, cioè il tedesco. Allora, quel tedesco che io lo chiamo il tedesco perché non l'ho mai visto giocare, mi detto, ma tu non hai mai visto giocare Nowitzki? Mi hanno detto che lui... forse lui sì. Sì, è sì, stato sì, lui... qualcosa di clamoroso. Anche molto... centrale nella rivoluzione del gioco di questi lunghi, certo. Che di questi lunghi che non stanno in area. Vedi, ogni volta avremo modo di aggiungere dei contenuti al nostro Boot Groove, che alle 8:50 termina, da appuntamento a martedì prossimo. Grazie Paolo. Dal contrappunto remoto al 333-180-9494 il bentornato a Pietro Rossi, che aspetteremo per la prossima puntata. Oh yes. Domani voltiamo pagina, libri a colazione. A breve l'Edipo Enciclopedico, liberi dentro, dalle 9:30 la rassegna stampa. Mi raccomando, non perdete il disco, il vinile della settimana, curato e condotto dal nostro Andrea Gozzo. A tutte e a tutti un buon ascolto, un buon imprevedibile martedì e a domani con il Breakfast Club alle ore 7. Il vostro William Piano, un caloroso abbraccio, un buon ascolto, una buona giornata. Ciao, ciao Pietro, grazie. Ciao Willy, ciao a tutti.